sono troppi. Allora, l'altra volta abbiamo letto una scena che naturalmente oggi commenteremo, ma prima occorre fare qualche precisazione sul libro che stiamo leggendo, il cui titolo è, come vedete, come sapete, La prigioniera. Il titolo dell'opera successiva, che ovviamente è La Fugitive non è il titolo con cui apparve, ve lo dirò, lo dico già in anticipo, apparve con il titolo Albertine di Spalù e poi venne chiamato, perché non si poteva chiamare La Fugitive in quanto che c'era già un'opera del poeta famoso indiano Tagore che si intitolava Diversi, si chiamava La Fugitive. Ma il titolo vero era appunto quello, quindi, per cui c'è un'opposizione, la prigioniera. Chi è la prigioniera? Di che cosa parla questo libro? Questo libro parla della occorrenza che vi dico. Il padre e la madre del narratore si trovano a lasciare il loro appartamento di Parigi dopo la morte della nonna, figura centrale della vita del narratore, e tornano a Combray. Quindi la casa resta libera. Combray è il paese, Lier Combray è il paese di campagna, no? Il paese, secondo me. In questa casa, in questa grande casa di Parigi, il narratore ospita la sua ragazza, Albertina. E la vita che fanno assieme è una vita di due giovani amanti, diciamo così, o innamorati. Qui già è la prima cosa un po' strana, perché in tutta La prigioniera voi non troverete un solo racconto del fatto che i due vadano a letto assieme. Anzi, risulta che sono in stanze separate, ma questo non significa nulla, perché molti sono in stanze separate. Il rapporto più identificabile fra i due è quello di Pigmalione nei confronti di un'allieva. Lei è avida di sapere. Lei è una borghese, una piccola borghese, laddove lui è un alto borghese. Lei non è colta, ma avidissima di sapere, laddove lui invece è finissimo, intelligentissimo e coltissimo. Lui la educa. Quanti anni ha lei? Questo è uno degli aspetti sempre più sfuggenti e fascinosi della recherche, che non abbiamo delle precise determinazioni temporali. A volte abbiamo degli strani anacronismi, comunque dovendo dire che età ha lei, dobbiamo limitarci a dire che è une jeune fille en fleur, una ragazza in fiore. Quindi per nostra pura comodità possiamo dire che lei ha, mettiamo, 18 anni. E lui ne ha di più, certamente. Ma è anche giovane. Avrà, mettiamo, se vogliamo darci un punto di riferimento, avrà 22, 23 anni, una cosa di questo genere. Il titolo famosissimo del secondo volume della Recherche è All'ombre des jeunes filles en fleurs, all'ombra delle ragazze in fiore, delle fanciulle in fiore. Il titolo è preso da Baudelaire, e perché in una poesia ci sono questi versi: car lesbo entre tous, perché lesbo fra tutti, ma choisi sur la terre, mi ha scelto sulla terra, pour chanter le secret, traducete, per cantare il segreto, de ce vierge en fleur. De ce vierge en fleur. Che c'è? Car lesbo entre tous m'a choisi sur la terre pour chanter le secret de ce vierge en fleur. Lesbo, Sappho, e voi sapete molto bene che stiamo parlando di una persona, in tutto il romanzo, in come l'idea dell'omosessualità, e Albertine è sospettata di omosessualità. Quindi il rapporto fra i due avviene tenendo conto di questa ipoteca, diciamo così. Ma chi è nella realtà della vita di Proust? Chi era Albertine? Quando diciamo chi era Albertine, diciamo qualcosa di non futile, perché tutti i personaggi della Recherche sono stati ispirati a dei personaggi reali, ma non uno a uno, no? Paolo corrisponde a Giuseppe, ma in una combinazione per cui una serie di personaggi corrisponde a un certo personaggio, una serie di personaggi femminili corrisponde a un certo personaggio. Nel caso di Albertine Simonet, cioè appunto la protagonista, la fonte di ispirazione più certa, più sicura, è l'uomo che ha maggiormente amato Marcel, e cioè Alfred Agostinelli, il nome naturalmente italiano, di origine italiana. Alfred Agostinelli era un uomo incontrato da Marcel nel 1907 a Cavour, e aveva Cavour sul mare. Cavour è una città che diviene modello per Balbec, che troviamo nella Prisoniera, l'immaginario Balbec, ed era stato un autista. Agostinelli era un uomo con un viso dolcissimo, rotondo. Fu il grande amore di Proust aveva avuto vari amori di uomini. Man mano che accettava la propria omosessualità, ebbe sempre amori intensi, molto intensi, ma Agostinelli batté tutti, per così dire. Dopo il periodo di Cavour in cui faceva l'autista, si ripresentò Agostinelli da Proust dicendo che aveva perduto il lavoro, che aveva problemi di danaro, eccetera, eccetera. E siccome Proust l'autista ce l'aveva già, non poteva cacciare via l'autista era il marito, è opportuno che queste cose minime le sappiate, il marito di Céleste Albarré, cioè la governante che ha scritto poi i ricordi di Proust, l'ha scritto su Proust, Monsieur Proust, e quindi non poteva cacciare via il buon Albarré, il marito della governante, e quindi pensò di fargli fare come lavoro il segretario. Agostinelli avrebbe scritto a macchina. La Recherche, colgo l'occasione di dirvi, era scritta a mano e a macchina, poi rivista, insomma, ma naturalmente la macchina da scrivere venne ampiamente usata. Quando Proust si trova a vivere in quella parte della vita, il suo amore per Agostinelli, i suoi freni inibitori, per così dire, sono minimi. si è ormai completamente lasciato andare a quelle che sono le tendenze più profonde del suo spirito, pur non ha mai amato nessuna donna, e ha avuto forse qualche contatto di tipo erotico con una certa bellissima Luisa de Mornant, si chiamava, ma insomma amava gli uomini, insomma. Agostinelli si era sposato. Ma attenzione bene, Proust non era assolutamente geloso della donna con cui si era sposato Agostinelli. Era geloso degli uomini. Capite bene? Cioè, se io amo una donna, io che sono un eterosessuale, non so se voi avete scambiato un con un omosessuale, ma comunque affermo la mia fede eterosessuale. Lei aveva avuto dei dubbi, vero? Lei dice che aveva avuto dei dubbi. Essendo io un eterosessuale, amo una donna e non me ne frega niente dei contatti tra questa donna e altre donne. È chiaro? Me ne frega molto del contatto di questa donna con altri uomini. Ho reso l'idea, ma un omosessuale ragiona in senso opposto. Gliene importa poco del fatto che l'uomo che ami abbia una moglie. Gliene importa moltissimo del fatto che l'uomo che ami abbia un amico che può essere amante, insomma. Doveva essere un amante molto irrequieto Agostinelli. Proust era ricchissimo ed era ricattabile. Un giorno decide di prendere delle lezioni di volo. Dovete pensare che era come se l'automobile fosse già stata rapidamente soppiantata tra i ricchi, e Proust era un super ricco, dagli aerei. Ecco. Nessuno a quell'epoca immaginava che l'automobile, che naturalmente c'era l'automobile, avrebbe avuto poi il successo che ha avuto, e quindi c'era questa idea di volare. I primi decenni del secolo sono stati fondamentali proprio nello schiudersi dell'uomo al progresso. Proust non ne voleva sapere che lui prendesse lezioni di volo, ma voi sapete che quello che ripeto sempre è: chiaramente Proust amava Agostinelli assai più di quanto Agostinelli amasse, e quindi Proust era ricattabile, ho reso l'idea. E quello che ripeto ogni anno, il proverbio siriano, chi lo conosce? Lo vuole ricordare nessuno di voi? Di due cuori, uno è sempre più caldo, l'altro è sempre più freddo. Quello caldo, cioè quello che ama di più, non ha valore ed è gettato via. Quello freddo è più prezioso di un brillante. Ragion per cui Agostinelli decise di andare a imparare a volare e andò. Ma un giorno, siamo nel 13 o nel 14, e con il suo aereo si dimenticò che doveva cabrare, credo che si dica così, doveva alzarsi con la cloche, non riuscì a farlo in tempo e quindi all'arco di Antibes andò giù e morì. La prigioniera fu scritta prima e dopo la morte di Agostino. Albertine è Agostinelli. Tenendo conto che ha delle... Albertine, direi, anche somaticamente ricorda qualcosa di Agostinelli. Albertine chi era? Com'era? Era una bellissima ragazza. Bruna. Sportiva. Piena di vita. Direi l'opposto di quello che è il narratore. Il narratore è sottile, intellettuale, fine, è insomma certamente non sportivo, non sportivo. E che cosa racconta nella prigioniera? Racconta quindi quest'uomo che educa questa donna, fate caso che nell'educare una ragazza ci sono poi dei sottofondi erotici molto, molto evidenti. Insomma, il tema dell'educazione delle ragazze è un tema che ha scatenato le fantasie erotiche più straordinarie, perché poi una ragazza che non si lascia educare viene punita, non so se prendo l'idea. E comincia a essere geloso di lei. Di chi? La ragazza è sempre in casa, ma lui è geloso del suo passato. Nel passato Albertine ha avuto una relazione con una donna, con Mademoiselle Venteuil, lesbica. È quello che è indicato questa relazione con il paese di Montjouvain, dove stava per l'appunto Mademoiselle Venteuil. Sì, ma al presente che c'è stato? E poi in tutto l'intervallo di tempo tra Mademoiselle Venteuil e il momento attuale ci sono stati altri rapporti? Altri rapporti? Come si comporta Albertine con lui? Stuzzica la sua gelosia? Assolutamente no. Albertine è mirabilmente corretta, se così possiamo dire. Tenera, dolce, gentile, affettuosa. Non potremmo comunque usare l'espressione appassionata, perché neanche lui è appassionato. C'è un punto in un quaderno che dovete quantomeno sapere che esiste, si chiama Cahiers 1908, che è stato trovato quando io studiavo Prutto, quindi è stato trovato negli anni 70, 60, 70. In questo quaderno ci sono delle bozzi delle idee di Proust, e ci sono tre righe che interessano la prigioniera, e dice quanto segue. Dice queste parole che sembrano banali e sono invece abbastanza misteriose. Dice, ascoltatemi bene, la fanciulla sarà rovinata. Io la manterrò, ma senza cercare di possederla, senza goderne, per incapacità di essere felice, per l'impossibilità di essere amato. Ed è un passo interessantissimo. La fanciulla sarà rovinata perché in questa situazione malata di carcere non può altro che sentire la vita che se ne va, e quindi esce, poi scappa da questo carcere, dove il secondo libro si chiama La Fugitive, perché da questo carcere, da questa gabbia, questo uccello, questo bellissimo uccello che è Albertino, scappa, vola via. Io la manterrò, questo è vero, la mantiene facendo i regali ogni sorta, cioè, educandola, ma senza cercare di possederla, questo era lo scopo. E perché non la possiede? Noi possiamo comprendere questa frase se cerchiamo di capire l'alto livello metaforico della storia. Se Albertine è Agostinelli, allora questo amore proibito, vietato, almeno nella fase iniziale, e non prevede che ci sia una consumazione, poi in realtà tra Agostinelli e Proust la consumazione è amplissima, insomma. Ma le altre parole sono interessanti: senza goderne, per l'incapacità di essere felice, per l'impossibilità di essere amato. E già, perché quando uno vive un amore clandestino, questo di verità vale vale non solo per il caso di un amore considerato socialmente proibito, come allora, l'amore omosessuale, eccetera, ma vale per esempio anche in molti casi non si gode di una donna o di un uomo che tu hai se per esempio è sposato. Se per esempio è sposato, chi di voi avrà, se non ce l'ha già adesso? No, ma voi non siete sposati, quindi pare che siete. Una relazione con una persona sposata, uno avrà godimenti sessuali di ogni genere, ma sofferenze enormi. Cioè l'adulterio è uno dei marchi ingegni più tragici, ecco perché il matrimonio è terribile, per soffrire, fatto per soffrire. Perché quando tu sei con l'amante, tu pensi a quanto non puoi viverci insieme come vorresti. Questo è uno dei grandi topi, no? E quindi quando poi torni dalla moglie, facciamo il caso dell'uomo, ma vai naturalmente all'opposto, quando poi torni dalla moglie ti rendi conto che questa donna è esecrabile, la odi. E perché? Perché è lei che ti toglie la possibilità di stare con la tua amante. E ripeto, vai anche all'opposto. Le situazioni proibite, che possono essere queste, tutte le situazioni in cui vi sia già un altro di mezzo, o per la fattispecie il rapporto fra due persone dello stesso sesso, tutto questo non comporta la felicità, e in questo abbozzo di pensiero che dice Proust è nemmeno il desiderio di possesso. Perché poi in realtà? Perché si sente che la persona sfugge. In tutti gli amori proibiti si sente che la persona, io ho conosciuto un numero sterminato di persone che hanno avuto rapporti cosiddetti proibiti, insomma, ed erano persone che anche godendo sessualmente però erano poi molto infelici per non poter vivere la felicità che volevano. Tutti i fatti di cronaca nera che leggiamo ogni giorno sui giornali, quello ammazza l'amante, che è sposato, eccetera, sono cose direi di 2-3 volte al giorno capitano fatti di questo genere, no? Si può possedere una persona? Possedere il corpo di una persona è sufficiente per poter dire a noi stessi che la possediamo? Ma facciamo una piccola obiezione. Prima obiezione: ma se la persona mentre fa l'amore con te pensa a un altro, come l'hai posseduta? Seconda obiezione: mettiamo che la persona pensi a te, ma la persona quale si è costruita, direi cellularmente, quella che tu hai con te, sotto di te in quel momento, che storia ha avuto? Tu anni fa non la conoscevi. Chi ha? A chi ha detto, attenzione, questo è un punto importantissimo, a chi ha detto le stesse parole d'amore che adesso dice a te? La gelosia è irresistibile, è inevitabile. Per poco che la persona si lasci andare e lasci trapelare un qualche suo segreto, anche minimo, la gelosia ci invade, ci inonda. Come risponde l'amato al geloso? Risponde in genere negando, ma la stessa, punto importante, la stessa scarsa energia, magari casualmente, che impiega nel negare viene intesa da te con una confessione, e allora tu frughi ulteriormente, la persona si irrita, in quel momento tu diventi prigioniero del geloso. Dall'altra parte il geloso è prigioniero della persona che ti ha reso geloso. Quando quindi qui nella fattispecie noi parliamo di un uomo, il narratore, che è geloso di Albertine e la tiene prigioniera, occorre dire che se Albertine è prigioniera, sera, anche il suo carceriere, cioè il narratore, è prigioniero di lei, reciprocamente. Per tenere una persona prigioniera, anche tu devi essere prigioniero. Il secondino che ti sorveglia in carcere è, sia pure con qualche variazione, come ben sapete, prigioniero del carcerato, non meno del carcerato. Godrà di più libertà, potrà uscire, ma è prigioniero. Delle ore in cui sta lì è prigioniero. Vale la pena cercare di possedere? Ma se uno ama, vuole possedere. Il punto è questo. E se uno non vuol più possedere, se uno non vuol più possedere, dice Proust, allora vuol dire che non ama più. Quindi il grande concetto sulla gelosia di Proust è questo: finché si è gelosi si ama, se non si è più gelosi non si ama più. Domanda: esiste un amore senza gelosia? Non esiste. Quindi finché l'amore dura, essendo guastato, inquinato, avvelenato dalla gelosia, l'amore è infelice. Mettiamolo in un altro modo: esiste la possibilità di un amore felice? No, non esiste la possibilità di un amore felice. In questo senso, l'idea di Proust rappresenta un culmine sconvolgente della poetica romantica. Proust è uno scrittore che si trova a cavallo del romanticismo, che sta ormai degradato, non degradato, è mutato in decadentismo, e dei nuovi tempi, i nuovi tempi filosofici, storici, appunto, del Novecento. Chi è che si ama? Questo è molto chiaro nella prigioniera. Mi avete seguito bene? Chi è che si ama? Chi scappa? Se tu vuoi farti amare da qualcuno, devi scappare. C'è una pagina del Plaisir le Jour, un'opera giovanile di Proust, in cui c'è una donna che sta aspettando un uomo che sta aspettando una donna che deve venire nella stanza, e lui ha un grande desiderio di andare incontro, però capisce che se le va incontro, se fa il primo passo, questa donna è perduta. Quindi si ripropone di non fare il primo passo. La donna entrerà nella stanza e lui si comporterà freddamente. Ma la donna entra nella stanza, lui ha troppo desiderio di lei, si alza e fa il primo passo, e l'ha perduta. Si amano solo quelli che Proust chiama les êtres de fuite, cioè le persone di fuga. Si ama una persona solo se fugge. Uno dei motivi per cui, parlandone seriamente, il matrimonio è così rovinoso è perché nel matrimonio la persona non scappa più. Per cui se uno tiene a un rapporto, questo è serio, non è una battuta di spirito, se uno tiene a un rapporto ben deve guardarsi da riposarsi, perché non c'è un solo, è un fatto scientifico, non c'è un solo caso in cui l'abitudine cementi il rapporto. Certo, dà molte soprattutto dello spirito, ma dal punto di vista del desiderio, cioè in ultima analisi, nessuno è riuscito a nascondere la crudezza di questo fatto, del desiderio erotico, sessuale, se tu hai una eccessiva consuetudine, se la persona non scappa più, tu non riesci più ad amare, ti innamori, vai in cerca di altri amori. Cioè l'adulterio è, per così dire, una conseguenza scientifica del matrimonio. È impossibile scappare. Naturalmente uno può non commettere mai adulterio, questo non è nulla. la commetterà in spirito. Sono infinite cose che sono represse e hanno poi conseguenze devastanti, disastrose, come e più quelle che non sono state represse. Ma siamo solo gli esseri di fuga. Quindi più noi creiamo una separazione con l'oggetto d'amore, anche fittizia, anche giocosa, più abbiamo la possibilità di fare durare il rapporto. Adesso vediamo la scena che stavamo l'altro giorno considerando. La scena che stavamo considerando è la scena del bagno. Il libro naturalmente lo consideriamo in questo modo antologico, è l'unico possibile, mettendo in evidenza cose che in genere altri non vedono, ma noi ne siamo più bravi. È il capitoletto, quindi uno, l'avete visto l'altra volta, ve lo rileggo, vi do una traduzione rapida. E sarete davanti. Quando Albertine sapeva da Françoise che nel buio della mia camera, dalle tende ancora tirate, io non dormivo, lei non si curava di fare un po', non si imbarazzava nel fare un po' di rumore lavandosi nella sua stanza da bagno. Allora spesso, invece di attendere un'ora più tarda, andavo nella mia stanza da bagno, contigua alla sua, e che era confortevole. Un tempo un direttore di teatro spendeva centinaia di migliaia di franchi per costellare di veli smeraldi il trono dove la diva rivestiva un ruolo di imperatrice. I balletti russi ci hanno insegnato che semplici giochi di luce, diretti come occorre, possono produrre dei gioielli altrettanto sontuosi e più vari. Quella decorazione, già più immateriale, non è così graziosa, tuttavia, come quella con cui alle 8 del mattino il sole sostituisce quella che avevamo l'abitudine di vedere quando ci alzavamo soltanto a mezzogiorno. Le finestre delle nostre due stanze da bagno, perché non si potesse vedere dal di fuori, non erano lisce, ma increspate di una brina artificiale fuori posto. Il sole, tutto un tratto, ingialliva quella mussolina di vetro, la dorava, e scoprendo dolcemente in me un giovanotto più anziano, che l'abitudine aveva nascosto per molto tempo, mi inebriava dei ricordi, come se fossi stato all'aria aperta, davanti al fogliame dorato, dove non mancava neppure la presenza di un uccello. Infatti sentivo Albertine sibilare, fischiettare senza tregua. I dolori sono pazzi e chi li ascolta è ancora più pazzo. L'amavo troppo per non sorridere gaiamente del suo cattivo gusto musicale. Quella canzone, del resto, aveva incantato l'estate prima, Madame Montand, che sentì dire ben presto che era una sciocchezza, di modo che, invece di domandare ad Albertini di cantarla quando c'erano degli ospiti, vi sostituì una canzone d'addio, esce, sgorga, da fonti turbate, da fonti intorbidate, che divenne a sua volta una vecchia solfa di Masnet con cui la piccina ci rompe le orecchie. Una nuvola passava, eclissava il sole, io vedevo spegnersi e rientrare in un grigio il pudico ricco e ricco di foglie, schermo di vetro. Le pareti che separavano le nostre due stanze da bagno, quella di Albertine, del tutto simile, era una stanza da bagno che la mamma, avendone un'altra nella parte opposta dell'appartamento, non aveva mai utilizzato per non fare del rumore che mi disturbasse. Erano così sottili che potevamo parlarci pur continuando ognuno a lavarci nella nostra stanza da bagno, proseguendo una conversazione che interrompevano soltanto il rumore dell'acqua in quell'intimità che permette sovente in albergo l'esiguità dello spazio e la vicinanza dello delle stanze, ma che a Parigi è così rara. Allora colpisce sempre vedere, come nelle opere grandi, sono le opere d'arte, pagine come queste non sono minimamente commentate, insomma, racchiudono però delle cose bellissime. Vediamo un po' che cosa c'è da dire su questa pagina. Cominciamo a vedere. Anzitutto ci sono due giovani in casa che si lavano ed è mattino e è come se ci fosse una intimità coniugale. Voi vedete che la scena non ha nulla di appassionato, di coitale, no? Sono due giovani che si lavano. L'intimità coniugale, quando due si amano, è una cosa molto importante, perché diventa un completamento dell'amore fisico. Intimità coniugale vuol dire che lui ci sia a fianco tuo nel letto. È l'odore dell'altro, l'odore del corpo dell'altro, l'odore è molto importante nel sesso, no? Anzi, scientificamente la cosa di cui noi ci innamoriamo senza sapere passa attraverso l'olfatto, lo sapete, non ce ne rendiamo conto in molti casi, la maggior parte dei casi. Ma quel che è bello è fare delle cose insieme, lavarsi, o per lavarsi devi essere nudi. E due si lavano, ma separatamente, in due stanze però che sono attigue, le due stanze da bagno sono attigue. I vetri sono smerigliati perché non si veda, ma questa separazione, la separazione non fa altro che aumentare il desiderio. Ricordatevi questo concetto: la separazione aumenta il desiderio. Quando il desiderio sessuale cala, una delle classiche tecniche a cui si ricorre, nelle famose terapie di coppia che furono inventate in America, che hanno avuto grande successo anche in Europa, eccetera, quando insomma l'altro, l'uomo, non ha più quel desiderio, eccetera, è di toccarsi per un certo tempo tutto il corpo carezzandosi, salvo le parti sessuali, evitando rigorosamente le parti sessuali. Si stabilisce 20 minuti, 25 minuti e alla fine si attiva, proprio per questa esclusione, si attiva il desiderio sulle parti sessuali. C'è un atteggiamento qui di voyeur, o nella ricerca noi vedremo spessissimo questa condizione del voyeur, e tutti sapete che cos'è il voyeur. Voyeur è uno che osserva due che fanno lavoro. Un numero infinito di casi ci sono di voyeur che poi sono scesi alla delinquenza, che hanno ucciso la persona che faceva il lavoro, però hanno dovuto. Il voyeur è come dire uno che vuol controllare, vuol dominare attraverso il suo suo sguardo quello che accade. Quanto all'intimità coniugale, dovete sapere che tutti desiderano, maschi e femmine, quando specialmente, ma non solo, quando sono giovani, l'intimità coniugale. E perché? Perché nell'amore si tende all'uno, si tende alla fusione. Ci sono ragazzine di 15-16 anni che hanno l'abitudine di mettere dei capi d'abbigliamento, un golf per esempio, del beneamato. E il fatto che sia un golf di foggia maschile non solo non significa nulla, ma è una cosa sua, insomma. Noi sorridiamo continuamente quando siamo innamorati, quando siamo a contatto con gli oggetti della persona amata. È come essere a contatto con la persona amata, anche più. Guardate che dei due stanzini, uno dei due è uguale a quello che c'è in altra parte della casa e di cui si serve quando c'è, vi ho detto che i genitori sono fuori, si serve la mamma del narratore. La mamma del narratore però non c'è, e perché lì non viene mai? Perché sapendo che il figlio soffre di insonnia, è uno dei topi della ricerca, questo problema del sonno negato per il narratore, non lo disturba, perché se lo stanzino da bagno è vicino alla camera da letto e comincia a scrosciare l'acqua, è chiaro che il poveretto si sveglia. Ma una mamma non è un amante. Albertine non ha per lui le cure che ha una mamma. E tutto questo è eccitante. Finora il narratore è stato, come dire, in balia di una donna, la mamma, che era piena di cure nei suoi confronti. Questa ragazza non gliene frega niente di fare un'ora, per cui si lava, e questo non fregarsene niente di fare un'ora e di disturbarlo la rende prensibile da un punto di vista sessuale. Nel momento in cui la donna viene ad assomigliare alla mamma, si crea di nuovo un blocco. Sono vecchie questioni, importantissime queste, no? Perché si usa, per esempio, nel rapporto sessuale da parte dell'uomo a volte tratti con delle parolacce, con delle parole zozze, tratti la donna? Per cercare di renderla oggetto, perché la sessualità maschile ha bisogno di oggettualizzare. Se non oggettualizzi, la persona resta sacra, e se è sacra non hai la possibilità di avere un rapporto. Albertina è festosamente incurante del fare rumore, non gliene importa nulla. Allora, quando lui sente che lei è in bagno, va vicino. Questo andare vicino a una donna nuda in bagno è una cosa di sempre. Pensate sulla spiaggia d'estate, quando nelle cabine della spiaggia uno, i ragazzini, vanno a spiare al buco della serratura. Perfino qui sopra, nel bagno dei professori, c'è qualcuno che ha messo la carta nel buco della serratura, sperando di vederci qualcuno che ci andava dentro. D'altra parte, in questo bagno, vicino al mio studio, avete presente il mio studio? Beh, lì sono avvenuti copulazioni straordinarie. Come no? Ma stiamo scherzando. Nel bagno, quello degli handicappati, potrei dire chi è stato, sì, una cosa incredibile. Sì. Professori, sono venuti fine del mondo, quel bagnetto lì. Ma sapete, la difficoltà rende l'uomo ingegnoso. Come si fa con una seggiola? Perché? Come si fa con una 500 vecchio tipo? Come si fa? Ma io ho visto fare uomini di 2 metri che riuscivano con donne corpulente in una 500 di vecchio tipo. Ho visto due coppie in una 500 una volta, due coppie, quindi quattro persone che popolavano in una 500, in una 500, immaginate un po' cosa poteva succedere. Quindi lui va lì a spiare, lui va a spiare, va nella sua sala da bagno e qui avviene un fatto stranissimo. Lui non si alza mai presto, sono le 8 del mattino. Il sole cambia nella giornata, quindi lui vede uno spettacolo di luci che non aveva mai visto. E questo spettacolo di luci è affascinante. Tutti noi avremmo avuto esperienza di alzarci qualche volta in un'ora che non era la nostra. No? Io purtroppo, per me, inveterate oltre le abitudini, sono un uomo notturno e non ne parlerei, è una lotta col tempo che tutta la vita, perché la detesto questa abitudine. Una volta, non avendo, ero in casa della mia compagna, non lontano di qui, erano d'estate, e avevo dimenticato il sonnifero. Fu un tormento. Sentivo le ore che andavano via, sentivo un senso di angoscia, di sofferenza, erano la zona molto bella, residenziale, quindi non lontano di qua. Prima all'inizio dell'estate, fiori di vini, profumi, uccelli che cominciavano a cantare, 4:15, 4:30. Cristo, non ce la facevo più. Mi voltavo da una parte, dall'altra parte, la persona che mi stava a fianco dormiva e Dio l'avesse in gloria, una regolarità, una perfezione, qualche volta, riducendomi, come dire, a bimbo sperduto nella foresta, toccavo sulla spalla dicendo: io non dormo, e dicevo: ma io cosa devo fare? E dopo di un secondo dopo che andavo nel sonno, alle 5:15 ho detto no, piuttosto la morte. Sono uscito, mi sono vestito e sono uscito. E quando mai mi alzo alle 5:15 del mattino? Alcuni per strada, vicino al parco, qui di Alboni, al parco degli acquedotti, uscivano con il cane, facevano giochi la mattina, ed erano perfettamente le luci che c'erano. Andai verso il raccordo, presi il raccordo, tutti erano educatissimi. Quelli che erano sul raccordo, andavano piano, era una situazione meravigliosa. Sono andato a casa mia, ho preso il sonnifero, sono tornato, ho dormito poi fino a mezzogiorno, naturalmente. Ma mi colpì quel fatto delle luci, quelle luci meravigliose, che rappresentano, ci interrompiamo qui, i giochi di luce, questa è la domanda che riprendiamo domani, nella nostra vita. Domani è alle 14:00.